partito l'intento era proprio quello di colpire persone. Sono state indagini, come ha detto il procuratore in conferenza, seguite da un centinaio di uomini, di persone che, sempre secondo il procuratore, non hanno ancora raggiunto risultati esaustivi, perché l'uomo fermato questa notte non avrebbe ancora fornito il movente. Il reato per cui è stato fermato è strage aggravata, la finalità di terrorismo, ed è proprio la mancanza di movente la cosa che più impressiona, perché secondo quanto raccontato in conferenza stampa, l'uomo durante la confessione ha alternato momenti di lucidità, momenti di profonda confusione, ma non ha voluto dire il perché di un gesto così folle. Grazie, grazie a Cristina Carpinelli. Restiamo in Puglia. Si cerca una famiglia italo-olandese, padre, madre, bimbo di 18 mesi a Conversano, nel Barese, dove questa mattina sono crollate due palazzine per una fuga di gas. I tre erano arrivati qualche giorno fa per trascorrere le vacanze. Al microfono di Katia Caramelli, il comandante della Polizia Municipale, Giovanni Di Capua. Sì, ci sono tre dispersi. Chi sono? La famiglia Bernardi. Purtroppo abbiamo trovato la macchina parcheggiata, abbiamo capito qual era la macchina che avevano preso a noleggio e la macchina è parcheggiata qui, quindi ci sono grosse possibilità che siano soci. Loro erano a Conversano in vacanza? Sì, esattamente. I feriti invece quanti sono? I feriti sono 10 adulti e un bambino, ma niente di grave, diciamo. Cose di corruzione, niente di preoccupante. È confermata la fuga di gas all'origine? Al 90% sì. Sì, abbiamo isolato tutto, abbiamo già iniziato a rimuovere le macerie, siamo con i vigili del fuoco, con le sonde, per cercare di captare qualche rumore, per vedere se ancora abbiamo qualche possibilità di trovare qualcuno. La Corte europea ha condannato l'Italia per non aver concesso per 10 anni le frequenze all'emittente televisiva Europa 7 di Francesco Di Stefano e ha riconosciuto all'imprenditore 10 milioni di euro per danni materiali e morali contro una richiesta di 2 miliardi di euro. Ma non è contento Francesco Di Stefano. Sentiamo perché al microfono di Adriana Fracchia. Io non sono soddisfatto dell'importo del risarcimento, perché non copre nemmeno il 10% dei costi da me sostenuti. Si figuri poi i danni eventuali. Sì. Questa nostra storia è una tale schifezza stata che nessuno può non darci ragione. Però poi è fondamentale il risarcimento, perché noi abbiamo, per questa battaglia, abbiamo speso molti soldi. Certo, e lei chiedeva tra l'altro 2 miliardi di euro contro i 10 che le hanno riconosciuto. Anche se i 10 sono 10 volte quello che ci ha dato il Consiglio di Stato, continuano ad essere troppo pochi rispetto a quello che abbiamo speso e ai danni che abbiamo subito. Perché certo. Voi avevate speso? Noi abbiamo speso 100 milioni di euro, ma i mancati ricavi per 10 anni di impossibilità a trasmettere sono molti soldi. Noi li avevamo valutati in 2 miliardi, loro potevano valutarli anche in 200-300 milioni, ma non in 10 milioni. Sembra un po' un contentino quindi, dice lei. Sembrerebbe di sì, dal mio punto di vista, magari i giuristi eccetera parlano di successo, ma io per quanto mi riguarda non è un successo. Ed ora sentiamo come vanno questa mattina le borse europee, come di consueto in diretta con noi la nostra Deborah Rosciani. Le borse sono positive, quest'oggi consolidano tutte i rialzi messi a segno ieri dopo le indicazioni di Mario Draghi. La Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse, adesso si cerca di capire che tipo di orientamento avrà nelle prossime settimane invece la politica monetaria negli Stati Uniti. Stasera viene diffuso il Beige Book della Federal Reserve, il rapporto periodico sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce della Banca Centrale Americana. Più 0,5% sul FTSE MIB a Piazza Affari, più 0,56% Parigi, più 0,49% Francoforte, più 0,80% Londra. Madrid in rialzo di oltre un punto. Questa mattina due aste importanti di titoli di Stato. La Spagna ha collocato titoli per 2 miliardi. I rendimenti sono in Spagna ancora in crescita, mentre sono in riduzione i rendimenti dei titoli francesi collocati questa mattina. Un'asta piuttosto corposa, 7 miliardi 840 milioni di euro, ma la ricerca di titoli sicuri appunto ha premiato il tesoro francese, che ha collocato per l'appunto questo ammontare con rendimenti in ribasso. In ogni caso l'esito di queste due aste ha ridimensionato anche la corsa degli ultimi giorni dello spread fra BTP e Bund. Questa mattina siamo in discesa 421 punti base. I migliori titoli di Piazza Affari, Salvatore Ferragamo e Saipem, che sono in progresso di 3 punti. Euro

diciamo, tecnologie di apprendimento automatico, le macchine che riescono a estrarre delle contiguità, diciamo, dai dati sparsi. Questo succede per esempio analizzando le reti sociali o analizzando grandissime quantità di testi o di dati e facendo emergere delle cose che sarebbe stato impossibile prima riuscire a ritrovare. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna-Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it. In collaborazione con Expo Milano 2015. Ready. Steady. Abbonati subito a Sky e vedi 128 partite di UEFA Champions League, tutte in esclusiva in diretta HD, tutto lo sport con i giochi olimpici London 2012, Wimbledon, il golf, il rugby, il ciclismo, il basket, il meglio della Serie A, di calcio, notizie sportive 24 ore su 24! Con Sky più corri e più vedi. Abbonati entro il 30 giugno e scegli il grande sport di Sky. Non lo paghi fino al 30 settembre. Chiama subito 02 50 50. Info su sky.it. Sky, liberi di... Già qui? Ma come hai fatto? Per me ha corso Credit Reform. Non devi più correre dietro il tuo denaro. Ci pensa Credit Reform. È il più veloce, sempre. Ah, ma quanto ha vinto? Ha vinto la fiducia di 170.000 clienti perché il gruppo Credit Reform è la prima società di recupero crediti del mondo con 533 milioni di euro di fatturato. Con Credit Reform, il vostro credito è sempre al primo posto. 800-425-325 o creditreform.it. Precarietà, disoccupazione, assenza di prospettive e migrazione rendono i giovani l'anello debole della crisi. L'Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste, accanto ai progetti culturali e di solidarietà in Italia e all'estero, si impegna a sostenere iniziative a favore dei giovani. Investiamo sui giovani, sosteniamo i loro progetti e apriamoci al futuro. 8 per 1000 ai Valdesi, 100% alla solidarietà e alla cultura. Campagna 8 per 1000 delle Chiese Valdesi e Metodiste. www.8per1000valdese.org. Cosa entra in tre cilindri? 65 cavalli, fino a 23 km con un litro, risparmio su bollo e assicurazioni. Opel Corsa 1000 Ecotec, tecnologia tre cilindri. Meno cilindri, più risparmi. Tua a 9.250 euro. Guarda che ha bisogno di te, vuole soltanto crescere. Se vuoi che guardi al futuro, che ritrovi la voglia di affermarsi, la puoi aiutare soltanto tu. Non servono grandi investimenti, basta il progetto giusto. Però devi farlo ora. E la tua impresa? SAP Business One è la soluzione gestionale per le piccole e medie imprese. È nuova, è affidabile, perché ha tutta l'innovazione SAP. Scopri cosa può fare SAP per la tua impresa con il partner giusto. Chiama l'800-900-727 o visita chiamasap.it. Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, da Deborah Rosciani a tutti, buona giornata. Raccogliamo il testimone di Nicoletta Carbone per parlare anche noi di salute, ma in termini un po' diversi rispetto a come fa la collega. L'argomento di cui parliamo questa mattina a Salva Danaio è uno di quelli di cui non si vorrebbe mai arrivare a parlare. A Salva Danaio continuiamo, ma anche con l'obiettivo di fornirvi un servizio utile e raccontare la crisi. Oggi parliamo forse di uno degli aspetti più preoccupanti di questa congiuntura. Le difficoltà economiche obbligano gli italiani a scelte molto dure che fino a qualche anno fa non avrebbero interessato percentuali così elevate di popolazione. Abbiamo visto come le difficoltà del bilancio familiare portano a modificare le abitudini alimentari e di spesa, le abitudini di consumo, andando ad incidere su quello che ci troviamo a tavola, e già questo ci ha molto colpiti ed impressionati nelle scorse trasmissioni. Ora arriva un altro dato, in particolare da una ricerca Censis RBM Salute, per nulla incoraggiante. Gli italiani, infatti, secondo questo studio, iniziano a rinunciare anche alle spese relative per la loro salute. Con i tagli che hanno colpito anche la sanità pubblica aumentano i prezzi e questo porta anche a rimandare la spesa per una prestazione sanitaria o addirittura a rinunciarvi del tutto. Sono 9 milioni, stima il Censis, gli italiani che dichiarano di non aver potuto accedere ad alcuna prestazione, ad alcune prestazioni sanitarie per ragioni economiche. Ci sono donne, anziani, famiglie con bambini concentrate in particolare in alcune regioni. Stamattina a Salvadanaio approfondiremo e commenteremo questa triste fotografia cercando di segnalare le possibili strade da percorrere per non sacrificare la propria salute. Chiamateci all'800 24 00 24, raccontateci se la crisi vi ha portato a rinunciare alle cure mediche, soprattutto a quelle più costose, basti pensare qualche volta alle spese per andare dal dentista, insomma quella è una proprio classica spesa a cui si rinuncia e si rinvia più frequentemente. Vi è capitato? Raccontatecelo. Oltre al numero verde potete farlo utilizzando gli altri canali per interagire con noi. Scriveteci i vostri messaggi al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it oppure potete scriverci anche sul nostro profilo Facebook, siamo sul profilo per l'appunto salvadanaio-radio24. Già ieri qualcuno ci aveva scritto quando abbiamo anticipato il tema di cui ci saremmo occupati oggi. Paola ci aveva scritto il dentista e la norma, e non solo quello, Mirko, basti pensare che le mie ultime analisi del sangue solo per controlli di routine mi sono costate 121 euro, quindi una spesa programmata che magari l'ascoltatore ha potuto sostenere senza problemi, ma immaginiamo quando invece una prestazione sanitaria, una visita, dobbiamo farla improvvisamente, magari il costo che dobbiamo sostenere per questa sbilancia tutto il bilancio familiare, per l'appunto. Allora, chi sarà con noi questa mattina? Intanto gli autori del rapporto Censis, quindi la dottoressa Carla Collicelli, vicepresidente del Censis, che ha seguito in prima persona questa ricerca. Dottoressa Collicelli, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. E poi sentiremo Francesca Moccia, coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato, che è pure collegata già con noi. Dottoressa Moccia, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Luciano Balbo, presidente di Oltre Venture, questo è un fondo, una società, un'istituzione, poi vi racconteremo meglio, che ha creato a Milano il Centro Medico Sant'Agostino. Noi ne abbiamo parlato tante volte anche in passato, è un poliambulatorio medico che è stato inaugurato nel 2009 e che ha proposto un nuovo modello di offerta medica, un po' come dire un modello di sanità low cost, della quale abbiamo parlato tante volte in passato, un modello al quale qualcuno guarda con un po' di scetticismo, soprattutto molte categorie professionali direttamente interessate, ma si cerca naturalmente di garantire prestazioni sanitarie di un certo livello a costi un po' più accessibili, e poi vi racconteremo come si riesce a farlo e soprattutto se è possibile praticare anche in altre zone d'Italia un modello di questo tipo. Dottor Balbo, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. E poi sentiremo anche un altro ospite, il professor Federico Spandonaro, docente di economia sanitaria presso la Facoltà di Economia all'Università di Roma Tor Vergata, coordinatore scientifico del rapporto annuale sulla sanità del CEIS. Questo rapporto verrà presentato nei prossimi giorni, ma naturalmente il professor Spandonaro ci potrà dire cosa ne pensa rispetto a questi dati un po' preoccupanti che stanno emergendo da più osservatori e che cosa si può proporre alle famiglie che si trovano in queste condizioni di difficoltà, perché chiaramente è molto triste e frustrante dover parlare di questo argomento. A rinunciare a curarsi è veramente forse l'epilogo peggiore della crisi. Allora, vi ho dato naturalmente tutti i riferimenti per poter interagire con noi, mi aspetto molte telefonate, molte testimonianze stamattina da parte vostra, e vorrei cominciare subito con i dettagli del rapporto Censis con la dottoressa Collicelli, perché effettivamente quello che abbiamo letto negli ultimi giorni sui giornali ci ha colpito molto. Dottoressa, 9 milioni gli italiani che dichiarano di non aver potuto accedere ad alcune prestazioni sanitarie per ragioni economiche. Quali in prevalenza sono quelle a cui hanno rinunciato e dove si sono rilevati i picchi più importanti di questa nuova deriva della crisi, dottoressa Collicelli? Intanto vorrei dire che noi svolgiamo questo ruolo come Censis di, diciamo, di svelamento, si potrebbe dire, cioè di tirar fuori delle cose che non appaiono ancora dai dati ufficiali, perché ad esempio in questo caso i dati che abbiamo presentato sono stati raccolti pochissime settimane fa e sono l'espressione diretta dei cittadini e dei pazienti che hanno avuto delle difficoltà, quindi dati credo che siano molto utili per capire quella situazione che poi tutti percepiamo a livello personale sulla nostra pelle, ma magari non riusciamo a quantificare. A noi appunto risulta, secondo questa ultimissima indagine, che 9 milioni e 100 mila italiani hanno dovuto rinunciare a una qualche prestazione più o meno importante nell'ultimo anno per motivi economici o organizzativi, quindi si tratta per lo più della lunghezza delle liste di attesa che soprattutto in alcune aree del paese sono diventate davvero improponibili, in particolare laddove si tratti di prestazioni urgenti. E si tratta però anche a volte di altre questioni, cioè ticket troppo pesanti o invio a una struttura troppo lontana. In questi casi le persone reagiscono in vario modo, ci sono alcuni più abbienti, anche quelli forse che si preoccupano di più, che mettono mano alla tasca e quindi slittano verso una struttura privata, oppure questo succede ovviamente laddove la prestazione è molto importante per una malattia seria, e invece altri che rinunciano completamente, quindi è evidente il danno, il disagio e i rischi che corrono queste persone. Sono in prevalenza donne, sono in prevalenza anziani, famiglie con bambini, c'è un quadro preciso anche da questo punto di vista, dottoressa Collicelli, su chi rinuncia in primo luogo? Sì, sono soprattutto cittadini del sud e delle isole, questo si collega anche al discorso delle storiche, croniche inefficienze e differenze nel nostro paese, ma anche alla questione dei piani di rientro. Questo è un tema che noi abbiamo affrontato nell'ultimo anno già un paio di volte, registrando appunto sempre dalla viva voce dei cittadini un peggioramento netto della percezione della qualità e della disponibilità delle prestazioni sanitarie nelle regioni che appunto sono sottoposte a quei controlli, a quelle verifiche, a quelle riduzioni dal punto di vista delle prestazioni erogate che ben conosciamo e che vanno sotto piano di rientro. Quindi quando parliamo di spending review oggi io dico sempre ricordiamoci che in sanità un po' la prova l'abbiamo già fatta, va benissimo, è importantissimo andare a scovare le inefficienze e gli sprechi, ma quelle bisogna tagliare e non altro. E non altro. La sanità, dico io, come la scuola, dove credo che lo Stato debba mantenere, sono due ambiti dove lo Stato secondo me dovrebbe mantenere un presidio assolutamente irrinunciabile, e invece scopriamo che molto spesso sono proprio lì i primi luoghi in cui si taglia, ma sono anche i primi luoghi dove purtroppo si manifestano a volte molti sprechi, per cui è inevitabile che i tagli si facciano là. Detto questo, vi leggo intanto alcuni messaggi di alcuni ascoltatori, perché oggi vorrei cercare di raccogliere quante più possibili testimonianze, poi andremo anche ai nostri altri ospiti di questa mattina. Artigiano, 42 anni, Roberto da Bergamo, ci scrive: ho rinunciato a tutto, in primo luogo al dentista. Fabio, un insegnante: ho rinviato una spesa di 1200 euro per gli occhiali. Un suggerimento per gli esami del sangue, ci scrive Fabio da Milano: senza spendere nulla, ogni 3 mesi donate il sangue, fate del bene, siete sempre sotto controllo. Fabio, potrebbe essere un suggerimento utile anche questo. Io, Daniela, ci racconta: dopo anni non andrò dal mio ginecologo personale, farò la visita con la ASL, ho 58 anni e sono disoccupata dal 16 maggio. Daniela, abbiamo capito anche la sua testimonianza, e questa è anche un'altra rappresentazione molto chiara di quello che sta accadendo nel nostro paese. Francesca Moccia: hai voglia di parlare di diritti del malato in un contesto come quello? La vostra organizzazione aveva già avuto modo di monitorare questa nuova tendenza di difficoltà per le famiglie che rinunciano anche a curarsi? Assolutamente sì. Anche nel nostro rapporto sulla sanità, il rapporto di salute, è emerso chiaramente questo dato. Sono proprio raddoppiate le segnalazioni di difficoltà di cittadini rispetto all'accesso ai servizi rispetto all'anno precedente. Ovviamente la causa sono i tagli in particolare, ma comunque anche una serie di difficoltà che hanno, come per esempio i piani di rientro in alcune regioni, che ovviamente hanno messo un po' in ginocchio la sanità pubblica, e questo ovviamente incide sulle liste d'attesa, incide soprattutto per l'aumento dei ticket. Ricordiamoci che è stato introdotto un super ticket, il ticket sulla ricetta, che si va ad aggiungere ai ticket che già sono previsti per le visite, per gli esami diagnostici, e che addirittura hanno reso più conveniente andare nella sanità privata. Si faceva l'esempio degli esami del sangue e molti ci hanno segnalato che vale effettivamente la pena farli più privatamente che nel pubblico, questo chiaramente con un danno per le casse pubbliche che forse non abbiamo calcolato abbastanza. L'intramenia è una scelta obbligata per chi non vuole aspettare, lo sappiamo, costa di più al cittadino, sceglie il medico con cui fare la visita o con cui fare l'esame, ma purtroppo costa molto di più, spesso questa cosa è incomprensibile per i cittadini ed è vissuta come un'ingiustizia perché non certo. È obbligata. No? Per spiegare che cosa significhi questo termine, dottoressa Moccia, gli ascoltatori che non lo conoscono, sono praticamente quelle situazioni in cui un medico di una struttura pubblica in certi orari del giorno nel medesimo ambulatorio pubblico riceve in condizioni private. Ho detto giusto, ecco, facendosi pagare ovviamente appunto come un professionista privato. Allora, ancora molti ascoltatori, oggi veramente ho scatenato una grande attenzione da parte di chi ci segue da casa. Mi chiamo Gianna, ho 40 anni, non faccio da circa 10 anni nemmeno le analisi del sangue né tantomeno i controlli preventivi che una donna della mia età dovrebbe fare perché non me lo posso permettere economicamente, quindi c'è chi ha già una condizione di difficoltà da un bel po' più di tempo, da ancora prima che questa crisi deflagrasse, esattamente come stiamo vedendo da molti mesi a questa parte. Un ascoltatore invece su Facebook ci scrive: proprio poco fa ho fatto un'ecografia alla spalla, sono emersi dei problemi per cui oltre che la spesa per l'ecografia dovrò andare anche da un ortopedico, prenotazione ASL giugno 2013, privato, sabato ore 17. Cosa dovrei fare? Sono costretto ad andare da un privato e sicuramente il costo sarà il doppio, anzi credo di più se valuto quanto verso ogni mese con la mia busta paga. Questa è la situazione che conosciamo, appunto, e che comunque la crisi sta inasprendo sempre di più. Adesso ci faremo raccontare, dopo la nostra prima pausa, che cosa invece stanno scoprendo i ricercatori di Tor Vergata, della facoltà appunto di economia, con il professore Spandonaro, e che cosa si può fare per cercare di curarsi, individuando magari sul territorio, possono anche esserci vicino a noi, magari non lo conosciamo, quelle strutture che ci permettono di avere delle prestazioni sanitarie qualificate ma a costi un po' più accessibili, laddove appunto invece le spese sono tante in famiglia e non ci basta più per arrivare, non ci basta più niente per arrivare alla fine del mese. 800 24 00 24 è il numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi e cominceremo a sentirvi tra pochissimo. Se hai pensato di dover fare dei passi indietro, torna a guardare avanti. Con un anticipo di 5.800 euro puoi avere la gamma classe C da 325 euro al mese con Drive Pass Leasing, assicurazione incendio e furto e manutenzione completa inclusi. E dopo due anni sei libero di restituirla. TAN 6,99, TAE GOT 2,58, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial Services Italia. Offerta soggetta a restrizioni e a disponibilità limitata per contratti fino al 30 giugno. Info mercedes-benz.it. La dottoressa Sofia Rossi, direttore del personale di una banca, organizza giornate di team building, rinnova l'approccio coi clienti, si concentra sulla motivazione delle persone. Alla gestione del personale ci pensa ADP. Per saperne di più visita adp-italia.com. Ciao, sono la noia. Oh, cosa vuoi? Venire in vacanza con te. Ma io vado in Trentino. E allora? Non è il posto per te, lì si fanno trekking, vela, mountain bike. Ma io arrivo alla sera. Alla sera, relax e buona cucina, mi dispiace. Parti per il Trentino e lascia a casa la noia. Scopri una montagna di divertimento e benessere nel cuore delle Dolomiti. Cerca la tua vacanza ideale su visittrentino.it. Ma mi porti un ricordino? Un Trento Doc, così ci prendi con gli amici. Io non ne ho di amici. Signori, è un'offerta straordinaria! Solo per le prime 100 telefonate! Insieme al condizionatore vi diamo anche 10 metri quadri di prato sintetico, un trampolino elastico e mi voglio rovinare! Un nano da giardino, alto un metro! Se cercate un climatizzatore fisso, non affidatevi al primo che passa. Olympia Splendid lancia Unico Twin, l'unico climatizzatore fisso senza unità esterna in grado di climatizzare due ambienti grazie alla tecnologia Twin. Così il clima diventa multiambiente. Olympia Splendid, home of comfort. Molte banche oggi propongono solo tassi allettanti. Noi di UBS invece da sempre vogliamo aiutarvi a capire, offrirvi una consulenza mirata, capace di analizzare ogni opportunità e diversificare i vostri investimenti su scala globale. Noi di UBS siamo specializzati in questo. Siamo tra i maggiori gestori di patrimoni privati al mondo e finché non vi avremo dimostrato che su di noi potete contare davvero, non ci fermeremo. Cercate la vostra filiale UBS su ubs.com/italia. Se hai piantato l'ombrellone a est, vuol dire che sei arrivata in spiaggia molto presto. Tesoro, cosa stai leggendo? Padre Brown. Non avresti mai pensato di prendere il sole con Chesterton, i migliori racconti di Padre Brown. Le avventure di uno strano investigatore nel primo libro della collana Book i narratori, a soli 4,90€ in più, solo con Famiglia Cristiana. Faccio sempre le cose in regola io e chiedo sempre lo scontrino. Per la tua impresa, scegli la soluzione con le carte in regola. Oggi Microsoft Office Small Business Basics 2010 e tu e multilicenza a partire da €199. Mancano solo pochi giorni. Acquistalo su microsoft.it/promo. Salva Danaio. Allora, questa mattina abbiamo preso a spunta Salva Danaio, una ricerca del Censis che è stata divulgata in questi giorni, secondo la quale sono oltre 9 milioni gli italiani che dichiarano di non aver potuto accedere ad alcune prestazioni sanitarie per ragioni economiche, naturalmente con una situazione abbastanza a macchia di leopardo nel nostro paese, una situazione particolarmente accentuata nelle regioni con piani di rientro dal deficit sanitario e un fenomeno particolarmente accentuato nel sud, ma molti ascoltatori mi stanno dicendo che è un problema che riguarda tutti in questo momento e molti anche dal nord ci stanno raccontando che queste rinunce si fanno un po' ovunque. Prima di lasciarla, dottoressa Collicelli, volevo farle anche raccontare se emerge dalla vostra indagine anche come risolvono, a parte le rinunce, le famiglie questi problemi, perché so che c'è stata un'espansione abbastanza sensibile, pur con le difficoltà economiche, della cosiddetta sanità integrativa. Quante famiglie in Italia sono in grado di permettersi una polizza privata, un fondo sanitario in grado di sopperire laddove appunto il pubblico chiaramente non permette più magari anche una cura adeguata secondo la percezione delle famiglie? Allora, quando parliamo di sanità integrativa ed anche la ricerca che abbiamo presentato l'altro giorno su questo tema, ci riferiamo ai fondi sanitari integrativi, cioè a quell'area della mutualità che è il prodotto di un welfare contrattuale, cioè sono prestazioni e coperture che vengono inserite nei contratti di lavoro sia aziendali che di categoria. Quindi diciamo il tema della sostenibilità per le persone, cioè il fatto di poterselo permettere, è relativo, perché c'è un contributo dei datori di lavoro che copre parte di queste spese. Una sorta di secondo pilastro della sanità, esatto. Un po' esattamente come c'è l'equivalente fondo pensione nell'ambito del lavoro. Esattamente, in questo senso non è certamente un'area di prestazioni universalistiche perché riguardano determinate categorie, però c'è una condivisione del rischio, c'è una socialità, una socializzazione del rischio che riguarda molte persone che lavorano nella stessa azienda o nello stesso comparto. Attualmente si stima che siano circa 6 milioni gli italiani iscritti a fondi di questo tipo e sono circa 300 i fondi iscritti nell'anagrafe del Ministero della Salute, che purtroppo non ci ha dato ancora alcun dato però di dettaglio. Noi ne abbiamo studiati 14 grossi fondi, quindi per una copertura di 2 milioni di assistiti, e abbiamo sottolineato quanto questi fondi hanno una funzione importante. È vero che nel 55% dei casi forniscono ancora prestazioni sostitutive di quelle del Servizio Sanitario Nazionale e così non dovrebbe essere, perché il loro ruolo dovrebbe essere integrativo. Però nella situazione che abbiamo appena descritto, cioè di indisponibilità di molte prestazioni nel pubblico, ben venga anche questa funzione integrativa. Però poi forniscono anche, per una quota minoritaria ma importante, prestazioni integrative, per esempio i famosi denti di cui anche alcuni ascoltatori parlavano poco fa. In qualche caso addirittura forniscono assistenza domiciliare per disabili e per anziani, assistenza infermieristica, fisioterapia che non sempre è passata dal servizio sanitario, e poi prestazioni complementari, cioè ad integrazione di quelle del servizio sanitario, nel senso, io se faccio un'operazione importante in un ospedale pubblico posso ottenere da questo fondo un rimborso per le giornate di lavoro perse, per esempio, o per altri aspetti non coperti. Però appunto il grosso è ancora sostitutivo e soprattutto questo settore, appunto, come abbiamo detto, copre una parte per ora minoritaria della nostra popolazione. Sarebbe molto importante, a nostro avviso, allargarne l'estensione, perché è un polmone in più, cioè sono fondi non della fiscalità ma dei contratti di lavoro che vengono utilizzati di solito molto bene. Certo, naturalmente il tutto a patto che anche il tasso di occupazione nel nostro paese rimanga lo stesso, visto che c'è stata una grande emorragia di posti di lavoro negli ultimi mesi e magari molti lavoratori hanno perso anche questo beneficio qualora lo avessero avuto. Dottoressa Collicelli, grazie per essere stata con noi, ci continui naturalmente ad informare su queste tendenze. Un'altra verrà divulgata, viene monitorata proprio in queste settimane e i risultati di questo studio verranno diffusi la prossima settimana dall'Università di Roma Tor Vergata. Professor Federico Spandonaro, ancora buongiorno. So che il vostro rapporto, quello elaborato dal CEIS, lo presenterete il 14 giugno, ma forse almeno qualche anticipazione potrà darcela. Non scoprirete qualcosa di molto diverso rispetto a quello che ha fatto sapere, che ha fatto conoscere appunto all'opinione pubblica il Censis? Magari, come dire, i punti di osservazione sono un po' diversi, i campioni elaborati sono diversi, ma le tendenze sono queste. Che cosa ci racconta? Che cosa può anticiparci? Sì, intanto per precisione lo presentiamo il 13. In ogni caso direi che questa ricerca del Censis è estremamente interessante e conferma questo trend che noi avevamo a nostra volta cominciato a osservare qualche anno fa, di una crescente difficoltà delle famiglie. Un dato che mi sembra sempre importante richiamare è che in Italia la sanità non è tutta pubblica, 3/4 della spesa è pubblica, ma 1/4, che quindi è una quota molto rilevante, è comunque spesa privata. Già qualche anno fa avevamo cominciato a vedere che c'è una crescente difficoltà delle famiglie, specie delle famiglie ovviamente di anziani soli, ma crescentemente delle famiglie per esempio con molti figli che hanno sempre più difficoltà a accedere alle cure. Un dato che presenteremo quest'anno è che già con la crisi del 2009, e quindi questi dati che ha raccolto il Censis confermano che con il progredire della crisi si aggrava, si sono ridotte molto le spese per consumi sanitari privati. Molto più per esempio dei consumi in altri settori, e questo è chiaramente un indice di difficoltà. Si conferma anche che le aree più scoperte sono quelle storicamente non garantite dal servizio sanitario pubblico, da una parte l'odontoiatria, dall'altra però ricordiamoci sempre le badanti, cioè l'assistenza ai non autosufficienti. Queste sono le due voci di spesa che più frequentemente fanno impoverire le famiglie. E noi sappiamo che al di là del 10% di famiglie che sono considerate povere dall'Istat, c'è un altro 1% che vuol dire quasi 1 milione di persone che si impoverisce a causa delle spese sanitarie. Mm-hmm. Allora, adesso cercheremo anche di capire chi non vuole rinunciare alla prestazione, cioè chi non vuole rinunciare assolutamente a curarsi, perché anche legittimo che lo faccia, perché è inaccettabile che si presenti una condizione di questo tipo all'interno di una famiglia. Vorremmo anche capire come poterli indirizzare per guardarsi un po' intorno e magari, non lo so, fare un chilometro in più in macchina, ma magari individuare una struttura che è in grado di garantirci una prestazione a costi più ragionevoli, senza aspettare le lungaggini del pubblico, ma senza neanche dover andare magari al professionista privato dietro casa, che però ci chiede una tariffa insostenibile. Adesso ne parleremo soprattutto di queste iniziative di sanità low cost un po' spalmate sul territorio, ancora troppo poco direi, ma anche quelle chiaramente sono strutture che per essere messe in piedi poi costano, e anche oggi la condizione economica di difficoltà si ripercuote anche lì, non è che sia facile. Vorrei però sentire un paio di ascoltatori prima di sentire anche Luciano Balbo, l'altro nostro ospite di questa mattina. Vorrei sentire Stefania da Roma. Buongiorno Stefania. Sì, buongiorno, salve. No, io volevo intervenire proprio riguardo a questa trasmissione, è abbastanza giusta per quello che volevo dire, perché quando si va da un dentista la maggior parte delle volte si casca anche in brutti personaggi a causa dei prezzi, e quindi magari uno, ecco, rischia di cascare con dentisti non proprio dentisti per risparmiare un po'. Detto questo, che è capitato a me. Poi detto questo, allora vai nelle strutture normali dove chiedi un finanziamento, perché la spesa che devo affrontare io è di 13.000 euro e quindi non è proponibile al momento, e ti danno delle finanziarie. Le finanziarie praticamente le devi pagare, cioè nel momento in cui uno decide di fare il lavoro, apre la bocca, il dentista prende 13.000 euro. Come andrà a finire però questa storia? Che uno paga non sapendo comunque se vai d'accordo col dentista, se ti trovi certo bene, se è bravo dentista. Quello che proponevo io, e mi sembra la trasmissione più adeguata magari per dare voce a questa parte della popolazione, è che io accetto i 200 euro al mese per esempio per 5 anni, però autorizzo io la finanziaria in base a quello che mi fa il dentista a dare quello che devo dare. Cioè io stipulo un contratto mi fa un lavoro da 1500 euro, chiamo la finanziaria, autorizzo questo pagamento e vado avanti fino allo scadere dei 13.000. Per poter avere certo un controllo, esatto, anche della tipologia di lavoro che le viene, esatto, fatto, ed eventualmente avere l'opportunità anche di chiudere il rapporto con questo professionista se lei non e fosse non soddisfatta. E oltre con le spese che la finanziaria non ha speso per me. Certo, però insomma la cosa più triste, Stefania, se mi passa questo termine, è che lei dovrà fare questo lavoro non perché vuole farsi le denti di porcellana brillante, ma perché evidentemente ha un problema di salute che le richiede una prestazione accurata e da un costo che è veramente alto. Dottoressa Moccia, Francesca Moccia, coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato, certo che arrivare ad indebitarsi a questi livelli per una cura che dovrebbe essere nel diritto di tutti, però abbiamo appreso anche questo negli ultimi anni, abbiamo imparato anche questo, e non è solamente il frutto della crisi, perché voglio dire, le cure per le prestazioni odontoiatriche sono sempre state così elevate, i costi. Purtroppo sì, e infatti lo denunciamo da sempre e chiediamo da sempre che ci sia uno sforzo, al contrario, anzi, per farlo entrare nel Servizio Sanitario Nazionale, perché da sempre riteniamo che si sia fatto troppo poco. E oggi la crisi rende ancora più difficile prendere sul serio queste nostre richieste, ci rendiamo conto, però l'ascoltatrice ci ha messo di fronte a una realtà cruda, è troppo elevata la spesa, non è sostenibile per le famiglie, e la cura dei denti è una cura altrettanto importante come altre cure. Cito anche la prevenzione, perché in tempo di crisi chi farà più prevenzione? Così come Italia le politiche sociali, si citava la badante che oggi in tante famiglie è una spesa grossa per gli anziani, malati cronici. Come si farà con Italia le politiche sociali che ci sono stati? Perché la sanità tiene, ma le politiche sociali no. Abbiamo azzerato tutti i fondi. Ecco, dottoressa Moccia, voi chiaramente con il vostro lavoro presso il Tribunale per i diritti del malato vi occupate soprattutto della qualità all'interno delle strutture, delle prestazioni, no? Ma quando vengono da voi famiglie che vi denunciano situazioni di questo tipo, noi non ce la facciamo? C'è un suggerimento che come organizzazione specializzata in questo campo riuscite a dare a chi è in oggettiva difficoltà e deve ricorrere ad un prestito di questa portata appunto per curarsi, quello che gli spetterebbe di diritto, quello che uno Stato dovrebbe garantire? Ma noi assistiamo, tuteliamo le persone in tanti modi, per esempio nel caso delle liste d'attesa, lo dico perché è un'informazione che pochi hanno, quando i tempi massimi sforano, i tempi reali sforano i tempi massimi stabiliti dalla legge, è possibile per un cittadino rivolgersi al privato autorizzato pagando solo il ticket, il che vuol dire avere la stessa prestazione in tempi giusti e pagando solo il ticket. Questa cosa è poco applicata. Chi si rivolge a noi lo sa, ha la possibilità di spingere perché ciò avvenga, e molto spesso avviene, così riusciamo a tutelare molte persone. Nel caso dell'odontoiatria è molto difficile, ci stiamo provando da anni, noi ci occupiamo di fare informazione, non ci occupiamo ovviamente di temi più legati a, come in questo caso, ai prestiti, però assistiamo attraverso il PIT Servizi anche questo genere di situazioni, per cui per chi avesse la necessità, attraverso il nostro servizio, tramite i nostri consulenti possiamo trovare delle strade, e soprattutto è gratuita la nostra assistenza. La vostra consulenza, certo. Sentirei Angelo da Pordenone prima di sentire suggerimenti per chi è in viaggio, perché mi dà un ottimo assist poi per coinvolgere Luciano Balbo nella nostra conversazione. Angelo, buongiorno. Salve. Ci dica. Io volevo portare la mia testimonianza. Io parlo da Pordenone, Friuli Venezia Giulia. Qui già da qualche anno c'è un circuito di cliniche dentistiche, chiamiamole low cost. Posso anche fare il nome? Ma proviamo, almeno ai suoi amici di Pordenone, se non la conoscono queste strutture le conosceranno. Basta che non sono le sue, Angelo, non è che si fa un po' di pubblicità, sto scherzando, chiaramente ci dica pure. Si chiama progetto Apollonia, loro si firmano dentisti low cost e quality, ed effettivamente costano in media un 35-40% in meno rispetto alle prestazioni abituali, e con una qualità valida, insomma. Chiaramente non è una boutique del dente, però per molti lavori io non posso assolutamente lamentarsi, insomma, per come l'hanno seguita. Angelo, la ringrazio per la sua segnalazione, quindi il tema è, ecco, qualche volta facciamo anche un pochino di sforzo in più, documentiamoci, ma non è detto che su tutto il territorio iniziative di questo genere esistano. Tra pochissimo sentiremo l'esperienza di Milano con Luciano Barba, tra poco. Rade in diretta. Sulla A4 in Veneto code per un incidente fra la tangenziale di Mestre e Arino in direzione Padova. Proseguendo verso Brescia, traffico rallentato per un incidente adesso risolto tra Vicenza Ovest e Montecchio. Ci spostiamo sull'Autosole, 4 km di coda per un cantiere tra Calenzano e Roncobilaccio verso Bologna. Code per lavori anche sulla 22 del Brennero, code a tratti tra Pegognaga e Carpi in direzione di Modena. Infine si lavora anche sulla A3, traffico rallentato tra Cava dei Reni e Nocera Nord verso Napoli. È tutto, ci risentiamo tra mezz'ora. Salva Danaio. Luciano Balbo, allora, come dicevo, l'ascoltatore di Pordenone ci ha offerto un assist per poter parlare di lei, della vostra iniziativa e di quelle che possono essere similari sul territorio. Come facciamo a suggerire alle famiglie ad andare ad individuare anche questi centri che offrono delle prestazioni a costi sicuramente più accettabili rispetto a quelle private tradizionali, no? Il centro medico Sant'Agostino è un'esperienza della quale abbiamo parlato più volte anche nella nostra trasmissione. Lei conosceva il progetto Apollonia di Pordenone? Sì, sì. Conosciamo, ma direi è difficile trovare una soluzione in un momento in cui le risorse stanno mancando e su questo non credo di poter dire molto. Credo che però si possa fare qualcosa modificando l'offerta, e modificare l'offerta vuol dire riuscire ad abbassare costi e prezzi tenendo una qualità adeguata. Ecco, ci racconta come avete fatto voi, dottor Balbo. Sì, noi abbiamo creato un centro che ha tutte le specialità, ha volumi importanti, perché oggi avere volumi importanti, quindi usare un ecografo più volte nella giornata, riempire le agende dei medici e tutto, può abbassare i costi e quindi può permettere anche di abbassare i prezzi. Noi facciamo pochi margini, quindi riusciamo anche a fare dei pacchetti. E poi non credo che poi siate passati da fare, che ne so, 3 pazienti a 50, si può trovare un compromesso con delle prestazioni. No, noi facciamo visite di 20 minuti, mezz'ora, quindi più lunghe che nel sistema sanitario nazionale, univocità medico-paziente, però abbiamo dei prezzi un po' superiori al ticket, ma largamente inferiori al prezzo di mercato. Ci può fare un esempio, credo, tanto per capire? Ma le nostre visite specialistiche viaggiano tra i 50 e i 60 euro, però spesso sono accoppiate a esami ecografici a pacchetto, e l'insieme delle due, che per esempio può arrivare a 80-85 euro, è di poco superiore o quasi uguale alla somma dei due ticket. E non c'è un segreto, semplicemente è un'organizzazione del servizio e anche accettare, a fronte di volumi importanti, margini inferiori, certo, mantenendo una qualità elevata. Senza sentirsi sviliti come professionisti, dottor Balbo, perché qualche volta anche magari un medico ritiene di dover, per poter qualificare al meglio la sua professionalità, la qualifica solo sulla base del prezzo, ma è così, sì, i suoi professionisti si sentono sviliti. Ecco. A Milano, quindi in una città considerata avanzata sul piano della sanità, medici che fanno visite col sistema sanitario nazionale sono pagati 9 euro a visita, poi quando vanno nel privato chiedono 4-5 volte tanto e la struttura poi dopo fa un margine. Noi offriamo ai medici circa tra i 20 e i 25 euro a visita, quindi pagandoli di più, in un modo che è equo rispetto al trattamento sia del sistema sanitario nazionale che del privato. Quindi è questa dicotomia assurda tra pubblico e privato che va rotta, perché è questa che non sta funzionando. Dottor Balbo, al sud ci sono strutture come la sua, tanto per dare qualche indicazione pratica ai nostri ascoltatori che si sentono un po' abbandonati in questo momento da questo punto di vista? No, io tra l'altro lunedì sarò a Palermo nella regione Sicilia per tentare di fare qualcosa insieme, quindi conosco poco la realtà del sud. E certamente al sud più che al nord ci sarebbe bisogno, perché a fronte di una struttura pubblica che funziona peggio che al nord, le strutture private sono care quanto al sud, quanto al nord, e quindi in qualche modo la dicotomia è ancora più grande. Io credo che bisogna davvero investire nel cambiare il modello di offerta. Speriamo solo che in un momento come questo nessuno ha testa per fare il benché minimo investimento da nessuna parte. Allora, adesso un paio di ascoltatori, poi concluderò con il professor Spandonaro, se ancora ha la pazienza di rimanere con noi. Sabrina da Latina, buongiorno. Buongiorno, allora io sono Sabrina, ho 48 anni, dopo tanto tempo ho deciso di fare una visita ginecologica perché stavo male. Da questa visita a pagamento logicamente mi è stato riscontrato un polipo al collo dell'utero e due piccoli fibromi che momentaneamente non posso fare perché noi siamo monoreddito e abbiamo tre bambini. E nel frattempo mia figlia, la seconda, deve fare un intervento ad un piede, quindi ho rimandato il tutto per dar precedenza alla bambina. Ma con tutti i giri che ho dovuto fare, acquistare tra l'altro anche dei plantari, e l'ho fatto tramite il Servizio Sanitario Nazionale, ho scoperto che una cosa, che se io li facevo privatamente li pagavo 80 euro. Ma con il servizio sanitario invece si pagano 156 euro. Come mai questa grande differenza? Non dovrebbe essere il contrario? Grazie Sabrina. Devo dirle che questa cosa ce l'ha segnalata anche un altro ascoltatore, e adesso stavo cercando l'SMS che ci è arrivato, e lo stesso appunto rilevava, eccolo qua, questa incongruenza, pubblico-privato, eco Doppler, elettrocardiogramma e visita cardiologica, la ASL 1 di Napoli, 139 euro a settembre, da un privato 79 euro dopo due giorni. Ma qua dobbiamo fare i preventivi di questo tipo anche per curarci, dobbiamo mettere in piedi anche i preventivatori di spesa per le spese sanitarie, che mi sembrerebbe folle. Professor Spandonaro, lei è in grado di risponderci rispetto a questo? Ma io credo che ci siano varie cose da dire. La prima è che non parliamo sempre troppo male del servizio sanitario pubblico, perché il nostro servizio sanitario pubblico costa molto meno dei sistemi europei ed è comunque uno dei migliori, e questo io credo che è un riconoscimento che va dato. Dopodiché, come tutti i sistemi molto complessi, pensate solo che si fanno 9 milioni di ricoveri in un anno e milioni di altre di visite, eccetera, ci sono degli elementi di complessità che spesso e volentieri sfuggono. Io credo che manchi uno sportello dove si segnalano queste anomalie, perché certamente queste cose che hanno raccontato gli ascoltatori non hanno alcun senso. Io credo che ci voglia una grande responsabilità da parte di tutti, ci sono tanti sprechi da ovviamente eliminare. C'è bisogno che la sanità integrativa decolli, perché comunque la crisi c'è e ovviamente lo Stato da solo non può fare. C'è bisogno però che i cittadini abbiano più controllo sulla qualità del sistema, in modo da poterlo indirizzare verso quelli che sono i bisogni più importanti. Vi segnalo che nelle norme che sono nate negli ultimi 2-3 anni, per esempio sulla sanità integrativa, gli incentivi sono stati legati proprio al fatto che i fondi diano odontoiatria e assistenza prenotato sufficienti. Sono tutti tentativi che speriamo possano, come dire, poi avere un buon esito di indirizzare l'assistenza dove più serve e dove più i cittadini ne hanno bisogno. Certo. Allora, 30 secondi solo a Francesca Moccia, perché poi deve andare alla pillola IMSS. I plantari per la bambina di Sabrina costano di più dal pubblico che dal privato, come mai? Ma perché fa parte dei paradossi del sistema di tutto il mondo della protesica in Italia, che va assolutamente regolamentato, e c'è un gran caos da questo punto di vista. Non è la prima volta che lo segnaliamo, e il Ministero se ne deve occupare e tutti quelli che governano questo sistema nel sistema. Perché è molto complesso, molto più complesso del mondo dei farmaci. Ecco, infatti, e non apriamo questa parentesi, perché tutte le volte che l'abbiamo fatto in questa trasmissione abbiamo solamente scatenato le ire di tutti gli attori che questo mondo praticano e popolano, appunto. Allora, c'era Dario da Pavia, che è un medico, sarebbe voluto intervenire sempre chiaramente per denunciare queste situazioni. Dario, la salutiamo, non ce la facciamo a sentirla. Devo andare alla pillola IMSS, che ci aiuta a conoscere le novità e i meccanismi dell'ultima riforma delle pensioni. È vero, è quella di oggi, che per ottenere la pensione bisogna dimettersi dal posto di lavoro. Sentiamo. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con IMSS. È vero che per ottenere la pensione bisogna dimettersi dal posto di lavoro? È vero. La domanda di pensione, se si è lavoratori dipendenti, si basa sulle dimissioni dal posto di lavoro, il che ovviamente non significa che successivamente non si possa instaurare un altro rapporto di lavoro, che a sua volta darà diritto al versamento di altri contributi previdenziali e per questa via a supplementi di pensione. Naturalmente, se si è lavoratori autonomi, si può chiedere la pensione senza dover lasciare l'attività svolta. Grazie a tutti gli ospiti che hanno animato la trasmissione di questa mattina. Per tutto ciò che riscontrate di ingiusto nella sanità, segnalato dal Tribunale per i diritti del malato, arricchiranno le loro statistiche, quindi continueremo ad invitarli tutti quanti. Un'ascoltatrice ci segnala: per gli occhiali sono anni che andiamo in una fabbrica di lenti e risparmiamo non la metà ma i due terzi. Grazie a tutti, a domani. Ogni giorno c'è un'amica pronta a darvi un consiglio pratico per imparare a stare bene nel corpo e nella mente. È il Daily Lab di Essere e Benessere, il laboratorio quotidiano che con l'aiuto di esperti vi insegna a essere consapevoli delle scelte che ogni giorno ognuno di noi può fare per migliorarsi. Daily Lab, i consigli della salute, da lunedì a venerdì all'interno di Essere e Benessere e su radio24.it. In collaborazione con Natura. Nutrizione scientifica. Psillogel Fibra, per ritrovare l'equilibrio naturale dell'intestino. Da Natura, in farmacia. Comunicato speciale riservato ai commercialisti. Con Business Pass, la soluzione cloud di Passepartout, fai a meno di server, copie e aggiornamenti. Riduci i costi e offri ai clienti nuovi servizi collaborativi online, anche con tablet e smartphone. E fai attenzione, alcuni fornitori chiedono di rinnovare il canone del vecchio gestionale per più anni. Non cadere nella trappola. Chiama l'800 41 42 43 o visita passepartout.net. Non trovi un ristorante con sala TV e la partita sta per iniziare? Tadan! Questo è il momento di 89 24 24. Sì, guardi, lì vicino c'è un ristorante con Pay TV. Semplice, comodo, veloce. Info e costi 89 24 24.it. Benvenuto nel servizio clienti Quixa. Buongiorno, sono Maria, come posso esserle utile? Ma con voi posso davvero fare la polizza auto in qualsiasi momento? Certo, con Quixa può fare tutto da smartphone, quando e dove vuole. Siamo a cavallo. Contento? Sì. Anche il cavallo. Solo sul nuovo sito mobile di Quixa puoi acquistare la tua polizza auto ovunque tu sia. Scopri come semplice su m.quixa.it. Quixa, diretta, personale, AXA. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo. Bruciore di stomaco? Dalle coltivazioni e dalla ricerca Aboca, gli estratti vegetali di BioAnacid proteggono la mucosa dello stomaco dall'attacco dell'acidità. BioAnacid protegge lo stomaco alleviando il bruciore. BioAnacid da Aboca è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente il foglio illustrativo e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 19/11/2010. Quando dico ai miei partner che i nostri uffici possono ingrandirsi e ridursi facilmente senza cambiare indirizzo, sono confusi. Ma solo fino a quando non gli parlo del nostro nuovo ufficio Regus, fornito di arredamento curato e di infrastrutture tecnologiche, risparmiando il 60% rispetto ad un ufficio tradizionale. Regus si occupa del tuo ufficio e tu del tuo business. I servizi per il tuo ufficio li trovi su regus.it. Con un contratto di 12 mesi, il primo è gratis. Offerta soggetta a termini e condizioni, valida fino al 30 giugno 2012. Per chi ama l'istinto ma non rinuncia alla ragione, per chi spinge l'acceleratore ma cerca la sicurezza, per chi apprezza le prestazioni, i consumi ridotti e l'assenza del superbollo, per chi desidera Cayenne Diesel, la più versatile delle Porsche, non c'è momento migliore. Venite a provarla ai Cayenne Driving Days, prenotate su porsche.it/test drive la vostra prova di guida. Il centro Porsche più vicino vi aspetta con un'occasione che unisce testa e cuore. Sei un'azienda e cerchi agenti di commercio? Agenti.it. Cerchi rappresentanti? Agenti.it. Cerchi venditori? Agenti.it. www.agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Paolo Fresu, 50 anni suonati, tutti d'un fiato. Una nuova collana in 5 CD e un DVD, tutti inediti. Dal tour evento che ha celebrato i 50 anni del grande musicista sardo, 50 concerti con grandi ospiti italiani e internazionali. Paolo Fresu, il primo CD, domani con Repubblica e l'Espresso. Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Motivi personali, ma non si sa quali, confessa, ma non...